avanti? Ah, chi è? E chi vuoi che sia? Il fedelissimo, che quando può entra sempre. Quando ce n'è, quando non ce n'è non entro. Ok, ho provato un corso di inglese qua. Oh, te lo vuoi fare, Nathalie? Guarda, io inglese alle medie non ne ho fatto, abbiamo fatto francese, però non mi piace niente. So leggere più l'inglese, anche se a livello proprio... Abbiamo fatto alle commerciali un anno in inglese, mi è rimasto impresso più l'inglese, sai perché? L'inglese ha poca grammatica e molti termini, molti nomi, diciamo, termini, molti nomi, molti sinonimi, però poca grammatica, capito? Invece il francese è più, devi coniugare i verbi come si fa in italiano, capito? Infatti, io ho studiato uno e l'altro, però il francese non mi ricordo un tubo. Oh, poi non mi piace mai la lingua da ricchioni sembra. Non mi piace il francese, proprio non mi piace, l'inglese è universale, anche nelle istruzioni delle radio, tutto inglese. Oppure se sono radio cinesi sono è in cinglese il manuale, capito? Cinglese, metta cinese, metta inglese. E un minestrone, da. Oggi ho fatto minestra e fagioli. Stanotte c'è la contraerea, ragazzi. Buona, buona. Mi piace, mi piace. Eia, fra mezz'ora e più mangiamo. Oggi non sapevo dove sbattere la testa. Siamo usciti stamattina in macchina, nota prima niente, appena siamo entrati in macchina piano piano iniziate a piovicinare. Caspita, arrivati a Piazza di Segno ogni coso di ogni pioggia, ma una bella pioggia, finalmente ci voleva, io ero contento che stesse piovendo nata lì. Perché caspita, è da mesi che non piove. E c'erano tutte le signore rientranate dentro LED che non potevano uscire, che erano tutte senza ombrello. Io avevo portato l'ombrello per fortuna, anche mezzo sfasciato, però ce l'avevo. Ci voleva, quando ci vuole, ci vuole. Tu ha fatto la vinta che era verusorica. Uno ha ribaltato me in via tipo via Milano, credo. Forse tra via Duca e Abruzzi e via Milano. Due coniugi di Mores, sicuramente loro sono venuti. La pioggia, appena di pioggia, ha fatto salire l'olio dall'asfalto. E prima si è sbattuta a guardarelle, poi si è capotata di lato. Una Smart. Ma io non mi fido delle Smart. Fatalette sto. Incantato ti sei, Marco. Marco, cazzo che disturba al 9 ce l'ho, cazzo. Oh, Nathalie. Oh. È successa roba, era che qua lo spinotto va rifatto. Mi sono accorto che ero senza antenna e il lago è andato a fondo scala, modulando lo smitter. Stavo modulando senza antenna. Quindi tu fin dove hai sentito? Ti stavo chiamando fino a un pezzo. Devo stare attento, mi devo controllare lo smitter. E cosa stavo dicendo? No, ho chiamato Claudio a vedere se c'era. Sai cos'è? Ho chiamato Claudio, poi cos'altro ho detto? Manco me ne ricordo. Devo stare attento, mi perché quando vedo l'antenna così penso sempre che mi abbiano spillato il cavo, tagliato il cavo o roba del genere. Invece no, lo spinotto, questi spinotti schifosi di Fusaro, quelli con col dielettrico bianco, volevo quelli in bacchellita, non ne avevano. Ma ti conviene rifarlo il PL, stavi dicendo di quella Smart che ha capottato, ho sentito fino a lì io. Sì, una Smart con due coniugi di Mores, mi pare. Sicuramente era la prima pioggerellina, ha sbandato, prima si è sbattuto al guarrelle, lì alla rotatoria, al coso di... e poi si è ribaltata di lato. ho detto che la crema più gerellina è la più pericolosa, perché l'acqua va a fondo nell'asfalto e l'olio, tutte le sostanze viscide o oleose salgono in superficie. E il moto soprattutto è pericoloso. Credo. Adesso lo lascio così il corso, se no se lo tolgo poi dice che non ne sapevo. Ehi, Claudio, ci sei, io sei al lavoro. Aspetta, oggi c'è un bel di radiamatori modulando, sul ponte. Non sono tutti in digitale, per fortuna, se no ci butteremo i ricevitori. Natalia, ma il tuo ancora non l'hai memorizzato, no? Eppure le istruzioni ci sono, Natalia, ma erano in italiano o in inglese le istruzioni, non me le ricordo più. Manco io, qualche memoria già ce l'ho, adesso lo metto in scanner, ecco, sta andando. Guarda, 145 6625. Se è quella lì mi sa in frequente, se no ce l'ho qua. Dicci. No, qua non ce l'ho qua. Ehi, poi qua io sono con l'antenna esterna, quindi arrivano. Nonostante l'antenna sia solo UHF, mi mettere il conto. E si sente bene, capito? Non posso traslare certamente, ma si sente bene. Ai, caro. Che bene, se no avrebbe ricevuto anche lì. Sono affezionato, Gemmi, ma affezionato, Gemmi. Caro Claudio, ben entrato, dimmi, chi è che si è affezionato, io? Allora, ci si è affezionato. Stamattina c'era anche Giulio, che PMR. Io stavo ascoltando, capito? Adesso sto ascoltando lo stesso. E che passione! Ha visto stamattina come sono uscito per andare a Piazza del Segno in Barrada d'Eba? Io a Piazza del Segno sono andato stamattina alle 9, ho fatto la spesa, frutta, formaggio, di tutto e di più, e poi ho portato tutto a casa e acqua non ne ho preso, invece tu sei uscito a mezzogiorno e hai preso l'acqua. No, io avevo l'ombrello, caro, acqua non ne ho preso lo stesso. Anzi, c'erano tutte le signore senza ombrello barricate all'uscita di dentro MD, LD, come si chiama. Non avevano l'ombrello e non potevano uscire. Ma bello, un acquazzone, bello, sono veramente contento che abbia bevuto. Ti dirò che temevo, siccome il cielo era nero, temevo per eventuali fulmini, perché i temporali estivi sono pericolosi. Non era dato temporale, ci hai letto, ha dato precipitazione, quindi temporale è una fragosia. E vabbè, e comunque c'è caldo lo stesso. Eia, ma tutta qui l'acqua? O ci sarà ancora una nuova pioggia? Ogni settimana dovrebbe piovere di nuovo, però non so se domani o dopodomani. Io ve l'ho detto che da lunedì iniziava a piovere, poi bisogna vedere, non lo so. E beh, Natali, ti ho chiamato stamattina e non mi ha risposto. Chiamato mi hai. Cosa cavolo ce l'ho il telefono? Ah, baracchino, ti ho chiamato, cos'è il telefono? E la mattina non mi accendo mai. Io a casa a mezzogiorno e te ci chiamo, c'è qualcuno, c'è pure acceso il PMR, sento che c'era qualsiasi lì, c'era anche Giulio. Anch'io non accendo, la verità, di mattina no. E vabbè, se volete accendere la mattina, prima di mezzogiorno io sono a casa, quindi non c'è problema. Eia. E poi siamo andati al bar, abbiamo pigliato una cosetta veloce, il bar era preso d'assalto, sia all'interno che all'esterno, la gente si è riparata, capito? E c'era un bel po' di gente, infatti lavora bene quel bar, poi lunedì mattina non ne parliamo, lavora ancora di più. Quello non doveva Mister X, l'altro, quello verso LDMD. E io ho capito, ma anche il bar del quadrato lavora lunedì, e lì è tutto pieno. Va bene. Vabbè, Natali. Mi dica. Che si dice? E cosa vuoi che si dice? Non si dice niente? Insomma, Claudio, tu sei in ferie, ma mare niente, per via del tempo, così è. Ma noi stiamo aspettando, vediamo domani, secondo com'è facciamo il fine settimana così, secondo com'è. Ma per andare a prendere acqua, è freddo, non vado da nessuna parte. No, infatti, hai visto, avevo letto un articolo della Nuova, en passant, a Orosei, mille proprietari di case in zona mare si sono scoperti, cioè gli hanno comunicato che sono abusivi, cioè magari c'hanno la casa da 20 anni, lì da 30 anni, a Orosei proprio, mille abitanti di case sempre zona mare, non sul mare, cioè. Insomma, ho letto solo il frontespizio, gli hanno detto che sono abusivi e glielo dicono dopo 20 anni o quant'è, roba da matti. Prima ti fanno fare la voce, ti fanno fare tutto, poi non ho letto il coso in particolare, se lo vuoi leggere sulla Nova c'è. Giosso, perché a Cala di Perotto non è, non è tutto abusivo sul villaggio, lascia verde, lascia. Ma che senso ha? Allora le autorità non devono far costruire se è zona abusiva, non che dopo 20 anni dicono ma lei è abusivo, deve buttarne giù tutto. È una fesseria. E vabbè. Va bene. È un casino, Un casino. Vedersi buttare giù una casa magari. Oh, passeranno altri 20 anni prima che le buttino giù, perché sai, la burocrazia è lenta e ma inesorabile. Cappa, vai Natalia. Cosa ti volevo chiedere? Ma tu Natalia a Piazza Liceni non vai, no? Già sto uscendo, occupami, oh Claudio, non toccava il DL, io stavo parlando da solo e ci avevo lo Schmidt era con lo scala, perché il suo PL è venuto male, quelli col DL elettrico bianco che praticamente stava uscendo dal PL, quelli in bacchelite io voglio, e che siano anche buoni. E in bacchelite, non so se ne hanno qua, io li ho ordinati a furia. Tutti quelli esterni c'ho, cioè quelli in battinite buona e quelli interni in battinite sono meno buona, va? Però non ne ho di quelli in plastica, capite? Gappa gappa, Natalie! Sono qua! E infatti Fusaro non ne aveva, se trovo un negozio buono a prezzi normali me ne compro un po' di bacchelite. Capito? Qua se scaldi appena appena di più il centrale esce proprio l'elettrico lì, quell'affare bianco tende a uscire fuori dal PL, non resiste il calore niente, capito? Questa la bacchelite è bella teccia. Isola anche meglio mi pare, se vogliamo essere pignoli. Beh, io sopra su montagna c'ho tutto orfano, perché lì c'è tensione, poi insomma sono all'esterno eccetera. All'interno c'ho quelli in bacchinite marrone che non ho comprato qua, li hanno mandati a fuori, sono un po' più resistenti, ma comunque vanno bene. Ehi, signori, è arrivata la pappa, dai, a da voi, come diceva Belli Capelli, a bilancio, sento Franco, poi una pula fa da voi. Vabbè, là, ci sentiamo dopo, vai a mangiare, va. A mangiare, va, si mangia con ciucci. Ehi, sapete, sono deperito io, poverino. E il signor Goibin lo godeva. Allora, vabbè, devi mangiare anche tu. E gaga, ammazzami, dice quello. Signor. Entra in edora maestrale, va bene. Stamattina ha piovuto, sai perché ha piovuto? Non doveva piovere. Ha piovuto perché da maestrale ha girato all'imbeccio. In giro un paio d'ore ha caricato acqua. Sì, ma ha fatto solo la vinta, ha fatto una quattrone a buia la Berosoli. Qui c'è nuvoloso, anche domani, come oggi è la giornata, dai. E più che mi accudi una massa acculturata domani. Anche le si boccia tutto. No, visto no, a Padano non voglio. Se voleva l'acqua bene scendere qua, via Milano, bianca bianca, tutti sciumma io, già la lavata la carriera. Visto sì. Mentre mia figlia è via Buga a Brescia, farà d'una, ha fatto la rotonda, che avevi farà di Brescia, alla giunta rotonda c'è caputta, frenata c'è caputtata, vai curri, vai, cazzo, ma quando mai non lo vedi che la strada è sapone? Forse è quella smart che mi stava dicendo Marco. Non lo so che macchina è, feci da Brancarecci. Appena biovi, cazzo, non vedo abitato, che diventa sabone la strada. Non c'è ambiente che tengano, no che non c'hai una macchina da 25 quintali sotto, ma macchinette così bisogna stare molto attenti. Sarebbe una capotassi. Cazzo si chiude quasi qua, tutti in fretta, sono tutti in fretta. Cosa cazzo burrini? E poi c'è poco brutta quella rotonda di via Budapest. Cazzo, gli avete lanciata, ha puntato il bello invece, gira della macchina, boom! È scelta denaria. Vabbè, e quella gente inesperta, gente che non capisce che alla strada col terreno bagnato bisogna darle del lei. E specialmente appena ha piovuto bisogna dargli del lì, perché è sapone la strada quando è così. Da lì, pari a lavata a detersivo via Milano, ma ti giuro, qua, stava piovendo un bel, non sono riuscito a fare la foto. Pari a detersivo, bianca, completamente bianca era. Sì, già lo credo, era da un bel po' che non faceva acqua. Allora, bianca era, proprio di sciuma c'era le ruote delle macchine, figura di due. Adesso un po' già l'ha fatta, ma comunque bisogna stare sempre attenti. Per un po' di ruolo. E poi non bisogna correre, a prescindere. Bisogna andare piano. Oh, yeah, c'è Bizzini. Quello è se ne spirti. E più o meno non si è fatta niente, si è capottato, un chissà catturetta. Non lo so, c'erano i vigili urbani, poi è tenuta l'ambulanza, poi c'era anche i vigili del fuoco. Cazzo, io le temo quelle macchine, anche se sono in acciaio, maneggio, queste cose, catturetti so per me. Guarda, la Smart vecchia, questa di adesso non so come è fatta, ma la Smart vecchia c'aveva il telaio della Formula 1. Si ti piglia da davanti, dice Bedeggia, ma se tu la abili di fianco, stai tranquillo che ti entra dritto, che è bionda. E già ci ho seduto, l'architetto non c'aveva problema di quelle Smart Turbo, cazzo proprio camminava. La Brabus, lo so, io ne ho avuto 4, 3 ne ho avuto, 3. Vanno bene per città come seconda macchina, ma se no per il resto non vai da nessuna parte. Lui ce l'aveva perché circolava in città, capitola, faceva molto la città e quindi gli serviva una macchina piccola. Si conferma, vabbè. Però a prescindere dalle macchine, che siano piccole, siano grandi, bisogna andare piano. E allora uno che non va a dire anche di finocchi. Ora ci fate un giro di guidendi, a voi mi dico tutti ragazzi attaccati all'Aiburu. Sì, attenzione che non li trovino col telefono in mano. E non hai visto la studio aperta, mi ha fatto vedere quel ragazzo a 147 guidando e facendo il filmino, mettendolo su Facebook. A voi 5 minuti è mancata l'immagine, a voi di loro l'hanno avuto attaccata all'Aiburu, la macchina spezzata in due, morto sul colpo. Dimmi tu. E te Giovanni? Eia. No, ma c'è questa mola, Natalia, capite? C'è questa mola. Forse si rusei i picchi, vediamo la voi. Forse rusei i picchi, forse. Vedi già rusei i filai, buru. E come ti chiedi tu? Guardami, senza mani. Udubu, senza denti. Ok. No, c'è questa mola, davvero, del telefonino guidando, che è una cosa che io non... Guarda, non lo posso vedere. E guarda, un viva voce in macchina, mi. Cazzo, ma... bestiale. Si attacca alla tapparella, lì. Si attacca a calamita, mi. Cazzo, ma tanto funziona lei. È bestiale, Bluetooth. Rispondi da lì, da un volume, si intende tutto, di lusso. No, io la 147 c'ho l'impianto Bluetooth a casa, capito? Quindi varia quando si siede, attacca quello e si sente in tutta la macchina, puoi parlare tranquillamente con le mani attaccate allo sterzo. Con la piccolina non agio, ma non idratto. Io quando squilla il telefono, secondo chi è, metto freccia e mi fermo. Secondo che è, non rispondo nemmeno. Quando gioco fermo, allora chiamo. Ehi, se no conviene mettersi, io me lo portavo anche al lavoro, perché lo puoi attaccare dove cavolo vuoi, me lo mettevo nel camioncino io, perché a me mi telefonavano spesso e quindi cazzo, a farmacia pago il telefono in mano, la patente era mia. Quello è il problema, è quello proprio il problema, che se ti trovano sono casini. E infatti io c'avevo il lavoro, ci rispondevo con quello, cavolo. E poi ti puoi mettere l'auricolare, appoggi il telefono a sedile, capito? Ti metti l'auricolare e parli tranquillamente. Ma per gente voi più ritardi, guidendo con il telefono in mano. Ah no, io appoggiavo al sedile il telefono e rispondevo la viva voce, capito? E sentiva benissimo. Gli altri sentivano bene a me e io sentivo bene gli altri. E quello è il sistema per la sicurezza, capito? Quello è il sistema per la sicurezza. L'ho detto, bisogna ragazzi di tutto. Ah, se ti trovano oggi, cazzo, con il telefono, telefonendi, ti fanno i nuovo nuovo. E già lo so, ti fanno nuovo nuovo, sì. Già lo so, già lo so. Si attacca al parasole con un gancio, no? Questo che c'ho io. Ed è di gusto veramente. E quei kit sono, però io invece nell'Alfa c'ho completamente l'impianto dalla casa, capito? Quello è un kit, così è. Un kit, un pezzo è che si attacca al parasole e funziona la prima voce, Bluetooth. Non ha bisogno di fare nessun impianto, nulla. Ah, ho capito, ho capito. No, invece io ce l'ho nel coso della radio, no? C'è scritto Bluetooth, inserisci. E le colonnine della radio diventano come casse. E quindi puoi parlare tranquillamente. C'è anche il microfono. Ah, questo c'ha tutto lui, va un volume, va. Non devo attaccare proprio nulla. Devo attaccare solo a rubare a solo, l'attacchi. O dove non ti dà fastidio e lui funziona. Si conferma, ma va bene allora, non ha così sicuro quando guidi, eh? No, pigli il telefono in mano e non ti buoni fa niente. Cazzo, ne ha 5 minuti, squillava, cazzo, su capo il telefono, chi o capo aveva un problema, si telefonava il geometro, l'architetto, cazzo, e io dovevo rispondere, si casino tutta la via andando e torrendo, casino. Io la macchina da lavoro lo stesso, cioè il fiorino nuovo, c'è lo stesso l'impianto di coso, capito? L'impianto Bluetooth. Quindi quando io mi siedo accendo quello, appoggio il telefono, quando squilla rispondo direttamente camminando. Quando c'è dalla casa e quando non c'è sono buoni quelli che ho io, perché io l'avevo visto nella Jeep di un amico e mi era giubilato uguale da internet. Sì, sì, sì, nel fiorino c'è lo stesso, c'è l'impianto radio col coso Bluetooth, capito? Lo colleghi e sei tranquillo, se no tocca sempre il telefono in mano. Ah no, uno vedeva a chilometri, non andare. Oh, e poi io già l'odio il telefono, figurati, tocca il telefono in mano. Tu sono HI. Mia moglie sta sempre con questo cazzo di guardo il telefono con il tablet, mamma mia, qua io non lo posso vedere. Lo so, lo so. Marco, hai finito di mangiare? Sì, ma ravioli, mamma mia che buoni. Poi con quel sugo che mette mamma e il pecorino, anziché il parmigiano, a lei piace più quello, buoni, molto saporiti. Invece l'amico nostro, me, sempre col telefono attaccato all'orecchio guidando, sempre, oppure chattando, mentre guida chattando di notte, che non vedi nulla nemmeno, un giorno un incidente, vedrai che gli capitava un incidente tremendo. No, adesso con la macchina nuova c'ha tutto, anche la televisione c'ha. Buon per lui, dai. E costa poco anche mettersi un Bluetooth, non capivo io perché sempre con questo telefono all'orecchio. Ma a parte la pericolosità, anche le multe che ti danno, ti tolgono punti, un casino ti fanno. No, adesso con la macchina nuova c'è tutto, anche la televisione, capito? Ti guarda la distanza di frenata, ti dice se ci sono ostacoli, è una buona macchina quella. Sveglia. Ma anche io stavo pensando di pigliare un Bluetooth, però io direttamente non rispondo, sto guidando, oppure se riesco, sempre in sicurezza, premo il tastino viva voce, lo poggio lì sul sedile tra le gambe e parlo così, però tenendo le mani sul volante. Se non sono proprio fuori a velocità riesco a sentire, se sono in città sento, lo sento. Poi ci sono gli auricolari pure, gli auricolari Bluetooth, anche se a me di stare questa cosa infilata nell'orecchio no, preferisco allora un Bluetooth fisso in macchina. Qualcuno lo usa l'auricolare, l'auricolare Bluetooth. Vabbè, dopo mi mangio un'altra cosa. Nessuno è entrato, no? Oh. No, io non sento nessuno. A voi e voi. Solito traffico dall'altra parte. Ah, sul 20? No, no, più e mezzo. Oh, ma come mai? C'ho tutto acceso. Ah, perché il volume è zero. Per quello, eh. Eia, vabbè. Eia. Cosa vi volevo raccontare? Boh, cosa vi posso raccontare? Vedremo questa stagione se riuscirò a mettere la moto in strada. Casomai ci dividiamo le spese, io volevo far pagare tutto a mamma. Invece casomai, che ne so, io posso pagare la batteria nuova, il, come si chiama, la revisione, i polli, il bollo lì è ridicolo, costa pochissimo. Mamma paga l'assicurazione, vediamo se riusciamo a metterla in auge. E se no è inutile averla comprata proprio. Si vedrà, si vedrà. Chi vivrà vedrà. Tutti i radio ti hai comprato, la domanda per buttare poi la moto, che la moto è stata favolosa, io adesso sono fermo questi due giorni. Ma se domani è bella giornata e non piove, ma esco in moto. La macchina infatti viene dentro, posteggiata dentro, perché con la moto fai più in fretta, eccetera, eccetera. Cappa cappa, vero è Natalì, da anch'io vivi in 16-2, pure alla moto. E tu Natalì, che moto hai avuto nella storia? Moto, scooter, qualsiasi cosa, ciao. Non rispondi. Mi dicendo Marco. Ehi Natalì, tu nel corso della vita che moto hai avuto? Scooter, moto, motorini, tipo il ciao, cosa hai avuto? Il ciao, la Vespa, l'Honda 400 ho avuto, Suzuki 750, Kawasaki 900. E la Honda cos'era? Il 400 Four? Per caso? Il Burgmaster 50. Il 400 Four. Il Burgmaster 50. Ho avuto anch'io il 400 Four del 77, è una bella bestia, una bella, certo poco potente, ma era una bella moto. Guarda, a me piacevano parecchio sia la serie Z della Kawasaki di quegli anni e sia la 400 Four 750 quattro scarichi, no, sempre quattro cilindri, quelle erano moto. Te l'ho detto, a me piacciono le moto retro, a me le moto troppo moderne non piacciono. Ho avuto la Pridia, come si chiama, lo Scarabeo 50, ho avuto il Burgman 650, ogni quello se lo ricorda Claudio. Eia, e poi più niente, perché a te tornerebbe comodo uno scooterino per girare, perché lì è un vero problema il parcheggio. Lo so, non sono sul Di Marco, se no me l'avrei preso. Era la mano destra, ho fatto male a metterlo quella prima. Era quattro tempi addirittura quella prima, quello Scarabeo. Quindi un giro di giallo finiva in mano. La mattina era speciale. Una volta solo gli ho cambiato luce e poi l'ho venduto. Perché c'avevo bisogno di soldi, me la sono venduta. Ma sono alcuni che vado a portare il cane, già torno dopo. Ok. Ok, qua. Ma allora è giusta, sono le 6:30, 7:20. Adesso lo porti prima, cioè. Sì, perché quando sono io a casa lo porto presto, capito? Lui dopo tanto non esce, anche perché stava piovendo, quindi lo porto adesso, ok? Ehi, ehi. Vediamo se entra qualcuno, tipo Gianni, lo Pirum. Vediamo un po', dai. Prova, prova. Oh, signore. E adesso lo porto anche mia moglie, il cane. Quella Rizzo che devi sì, non è uscita dopo pranzo e quindi adesso lo porto. C'è gente che sta facendo prove sull'otto. PMR. Comunque la maggior parte chi si prende questi PMR non sa nulla di radio, cioè se li prendono giusto perché magari da supermercato, anche da Lidl li vendevano, giusto per parlare a distanza, ma non sanno una minchia, a malapena sapranno dove, in che frequenza sono. Manco quello sanno. Sì, l'altra volta, a proposito, ci sei Pomponio? Rispondi. Non c'è. No, con Pomponio stavamo parlando di quelle cose digitali, no? Che piacciono a noi. C'era questo signore, sì sì, dammi un indirizzo, che le ordino, voleva comprarsi radio digitale e poi venderle tipo ai cacciatori. Io ho detto, ma non ti nandi, che poi diventa un casino, diventa in digitale. Se ne male, il digitale ha rovinato la gente che lo usa poi così così. Ho detto, guarda che vanno bene i PMR normali per i cacciatori, non c'è bisogno di andare in digitale a invadere la frequenza. Poi ci dobbiamo stare noi, quindi la voglio libera. E poi bisogna anche cambiare canale, non bisogna andare nei canali degli altri. Il digitale è un po' tosto da programmare, ci sono molte voci sconosciute, perché dalla Cina te lo danno greggio, senza programmazione, ed è un casino perché, caspita, anche Gianfranco me l'aveva fatto notare che vanno programmate e bisogna saperle programmare, se no fai più danno che altro. E poi si vedrà, si vedrà. Non è cuscino, anche da usare. Devi mettere l'ID della radio che ti interessa. Un casino è, Natali. E vabbè, non ci sarà le spiegazioni. No, no, no, assolutamente. Dice come accendere lo squelch, come cambiare canale. Però la programmazione te la devi fare tu. Faremo anche quello. Avanti break. Buonasera a tutti, Luigi da questa parte. Ciao Luigi, ben entrato, dai. Compagnia di Natalino. Claudio è andato a portare il cane un attimino per fare un po' più presto, dai. Ma dovrebbe rientrare fra poco. Vai Natalino per Luigi. Ciao Luigi, ben sentito. Ah, ben sentito, non te lo dico perché non l'ho sentito, non ti ho sentito. Avanti. Ciao Natale, buonasera, non ero solo di passaggio, ho detto a 110 minuti, ho acceso anche questa che stavo tutta dentro il mobile, ho alzato e che non lo mettevo in moto e se non mi si rovina, devo cercare di venderlo qualche camionista se ci riesco. Ho troppa attrezzatura che da camion, da montare su camion a 24 e via dicendo, c'è un po' di roba. Devo cercare di farmela fuori, tanto non me ne faccio nulla e cerco di vendermela. C'ho questo disturbo a Santiago 9, non ti sento lui. Marco, tu lo senti perché io ho difficoltà, che ho quel disturbo malordo a Santiago 9. Sì, sì, lo sento bene io. Oggi non c'è il disturbo di ieri ancora. Quello modulato, quel disturbo strano elettrico. Ma Natali è ricomparso solo adesso, dopo tanto tempo è ricomparso. Eia. Tu? Chissà cosa può essere. Clima, clima no, oggi no, non c'è caldo da clima. Riprendi Luigi, vabbè, l'hai venuto con l'apparatino? No, è qua, ce l'ho messo da parte, qui ce l'ho qui. Anche quello devo fare fuori, anche quello devo vendere. Ma adesso mi stavo preoccupando Natalino, ma tu mi ascolti bene come, come collo, perché questo è un apparato che spinge pure. Qua sei 9.15, ti dico solo questo. Natalino è più basso, magari ti può ascoltare 9, però cioè, col disturbo elettrico a 9 figurati non passi. Ah, ho capito, perché sono un po' forse 4 watt sono adesso, però va bene così, dai. No, ce l'ho quello piccolino, Marco, ce l'ho quello famoso, sì, ce l'ho sempre, ce l'ho quello lì. Sì, per l'amico di Eugenio. Io a Eugenio invece gli avevo detto il mio, se lo vuole, con frequenzimetro. C'è quel piccola magagnetta, ma non grave, già da quando l'avevo comprato, tipo una falsa saldatura. E caspita, 250 euro quasi l'ho pagato con l'apparato. Manco a 100 euro mi sa che lo vuole. È positivo, dai. Anche questo c'è la frequenza, questo sto parlando, c'è la frequenzimetro, questo è un apparato che è un po' elaborato, l'ha fatto sul continente da dei lavori per farlo spingere un po' di più. Infatti si sente, cos'è, tipo Pluto oppure diverso? No, è proprio un Pluto, è il Pluto questo. Sì, guarda, un giorno una persona ha postato su un forum il sistema per far avere a questo baracchino che sto usando dei picchi paurosi, non proprio amplificazione esagerata, ma picchi di modulazione paurosi. Solo che io questi, sai, preferisco non rischiare di farti guai. Io ho rinunciato a lineari quasi del tutto, ho rinunciato a potenze elevate, a usare Omega Force, preferisco stare tranquillo, capito? E infatti sto usando sempre 4 watt e modulazione normale, microfono normale, ogni tanto raramente uso quello da tavolo. Meglio stare tranquilli. Non si sa mai. Ho capito, comunque hai visto cosa c'ha dietro quel baracchino che c'hai tu? Dietro cosa c'ha nel scippatore di calore? No, aspetta, che questo dissipatore di calore non ne ha. Non ne ha bisogno, perché no, non è a dissipatore mio. Il mio è un Superstar 3009 di nuova generazione, senza dissipatore, perché a 4 watt non scalda proprio. Sì, scalda appena se gli dai 10 watt in AM, così. Ah, è come il Tornado quello lì, allora, come il Tornado, il 4000, come si chiama? No, ho capito, no, quello che hai detto prima, il Megafo, quello lì nello scippatore del calore c'è il lineare dentro. L'Omega Force, sì, quello l'ho dato. E lì c'ha un bel finale, non mi ricordo la sigla, c'è un set iniziale, è un finalone che dà la potenza. No, qua c'è un IRF 510, 520, ma cos'è del genere, è un MOSFET qua, dai. Però vedi, ne ho due di 3009, uno l'ho lasciato omologato, proprio omologato, anche il trimmer della M è a metà, no? Non l'ho aperto. Invece l'altro 3009 che ha display blu, questo ce l'ha rosso, no? Dei canali, l'altro display blu è un po' meno omologato, diciamo. È positivo, dai, positivo. Comunque questo c'era l'escipatore calore di quegli apparati lì, dai, questo qui è fatto così. E niente, questo è fatto così, dai, c'è lo stesso sistema questo qua. No, questo sai cosa ha dietro? Questo, a differenza degli antichi, ha una presa a quanti poli sono? 1, 2, 3, 6 poli se pensiamo. Ha un attacco a 6 poli per attaccare il frequenzimetro, che peraltro avevo comprato. Un frequenzimetro con un attacco particolare, che ti legge la vera frequenza all'apparecchio, però non è un indicatore di frequenza, è proprio un frequenzimetro in tempo reale. Ma non lo uso mai, perché tanto quando lo metto mi viene la paranoia che ci deve essere sempre lo zero finale, sai come l'apparecchio un po' intipidisce. E alla fine quello, il frequenzimetro serve esclusivamente per la banda laterale, per la M no, non mi interessa, dai. È positivo, positivo. Comunque come è fatto dentro, tipo Pluto, tipo Tornado, come è fatto dentro l'apparato lì? Sì, guarda, come un Pluto, diciamo che l'evoluzione mi pare che sia la versione della scheda, mi pare sia la 15F o 15C, è l'ultima versione del 3009 ed è fatto in Malesia. Sì, mi pare 15C, la EPT 3006 15C dovrebbe essere, o F, ma adesso non me lo ricordo. Comunque sì, componenti classici, trimmeroni belli grandi, belli pronti a girare, capito? E le cose, diciamo, del microfono al lato c'era, come lo 2001, come il flutto. Sì, sì, questo è al lato, questa è la versione classica. Invece la CRT aveva fatto il Superstar 3009N che aveva la presa frontale, lo sai, al posto del volume square c'aveva la presa del microfono e un po' meno tasti, cioè un po', e insomma avevano dovuto supplire la mancanza della doppia manopola volume square, vabbè. Comunque guarda, è l'apparecchio che preferisco in assoluto, potrei anche darli tutti, ma il 3009 lo tengo perché esce più chiaro di radio, poi se metti l'amplificato non ne parliamo, è tutto senza menu, sotto menu, capito? Tutto manuale. Ho capito. Ascolta, cosa ti volevo dire? Volevo dire una cosa, ah, ecco, ti stavo dicendo, ma c'è anche il potenziometro dei watt, quello nasce così o non ne ha? No, questo allora non ne ha, questo somiglia alle prime versioni, per esempio le levette, sai cos'ha? SRF, SVR Cal, no, quella del Rosmet, poi NBA, NL, poi tono alto basso, che sarebbe per le bande, che però qua non è usato, poi canale 9, non ha i 10 kHz questo, somiglia ai primi usciti, capito? È un rifacimento dei primi usciti, mentre i CRT francesi avevano il tastino 10 kHz. Ho capito, un'altra domanda te la posso fare ancora. L'importante bianca quanti watt dà e quando muri quanto sale? 4 watt questo portante bianca, e modulando non sale perché questo non è esasperato. Poi sai cos'è lui? Io c'ho un rosmetro che non segna i PEP, ci vorrebbe un rosmetro tipo il Daiwa CN801 che segna proprio il picco. Qua non lo so se sale, non ho un rosmetro qua, poi non è adatto anche, mi guarda per esempio, se fischio dimmi se aumenta. Sì, aumenta, sale. No, perché, cosa ti volevo dire, perché se no si può fare tutto su quell'apparato lì. E cosa ti volevo dire, il trimmer VR13 ce l'ha quello lì, dietro in fondo. E lui, adesso non mi ricordo il nome dei trimmer. I nomi non me li ricordo, dovrei pigliare quello schema, però c'ha i soliti trimmer tipo potenza, in AM, modulazione AM, deviazione FM, carrier CSB, le solite cose, però credo che siano cambiate rispetto al Pluto e quelli là, cioè le hanno disposte in modo diverso, almeno credo. No, se c'è il VR13, il VR13 sono i watti, si aumenta i watti, il VR14 si aumenta la radio, che sono uno vicino all'altro, sono vicini più che altro. Guarda, avevo le foto, avevo fatto anche le foto dell'interno, mannaggia, però ce l'ho sul computer grande, non ce l'ho sullo smartphone, se no te l'avrei fatto vedere. Guarda, il 3009 ne hanno fatti tutti i tipi, almeno con quella scheda. Prima lo facevano in Giappone, poi in Corea, poi in Malesia, poi prima alle Filippine, adesso sono finiti, poi a Taiwan, adesso Malesia. È positivo, e poi c'è un integrato lì vicino allo spinotto dove entra il microfono dentro, c'è un integrato, quella tre piedini. C'è un numero particolare, quell'integrato lì, se tu lo togli, dai 4 watt di coso passa ai picchi di anche 18, anche 20, togliendo solamente quello senza fare altro. Ah, ma quello non è il transistor della modulazione, o sbaglio? È una cosa del genere, quello, togliendo quello lì, ti dà picchi più forti, ma ancora di sale di più di orario, molto molto, però potrebbe disturbare, capito, però va molto di più, dà dei picchi allucinanti. Troppo, no, cioè preferisco avere radio che escono magari limpide di radio ma modulazioni normali. Ecco, per esempio questo ha il trimmer di fabbrica della M, grosso modo è a metà, quasi la metà, mentre nell'altro 3009 gliel'ho messo a manetta, infatti esce più forte il radio, più forte di questo, e questa è una radio proprio normale, omologata diremmo, l'altro è più forte il radio, poi se metti l'MB più 5 o il DM1000 è un bijou. Ho capito, sì, no, perché allora aspettami, togliendo quell'integrato lì, poi tu non devi portarlo più di 4 watt a portante bianca, non serve più, perché ti dà radio a volontà, se tu aumenti anzi ti tende a mangiarsela un po' la radio, e devi fare giostrare su altre cose, e, diciamo, togliendo quell'integrato lì tu devi portare a portante bianca massimo 4 watt, poi devi giostrare su, un'altra cosa, e si è fatta la bella la radio. Capito? E allora ti fa una bella radio, ti dà dei picchi belli, anche 18 picchi di 18 watt, anche 20, e a qualcuno arriva anche a 25. Figurati, è solo che ho paura sempre a non so disturbare, preferito tenere radio che escono normali, anche quelle 9 CRT 9009, 7009 hanno radio grosso modo normali, magari un po' più forti perché sempre sono trimmerate, ma sempre radio bene o male normali, dai, non esagerate, non doppio ondulatore, non modifica di picchi, radio normali, dai. Poi ero Natalino, oggi c'è una bella bestia invece. Cosa, Marco? Che c'è una bella bestia tu, di radio. Sì, una bella bestia. Positivo, dai. Questo senso di... Cercano sta bauando, ma... Questa è macchina, lo pompava un bel, questa è macchina parlava di propagazione. Questa macchina quando giravo, come si chiama, parlavo per propagazione, perché questo sale fa 50 watt di portante bianca in questo baracchino. Figurati, cosa ti volevo dire? Che l'Omega Force io non lo usavo tanto in casa quanto in macchina. In casa, mamma mia, c'ha spuri e sicuramente armoniche, al fastidio, ma la macchina era un bijou, perché anche con un watt di portante muta ne mettevi uno o due e tutto il resto 40 watt e più erano modulati, anche se la scatola dichiara di più, ma non ci credo, io ne vedevo 40 col mio trosmetro, a meno che col mio wattmetro, con lo strumento che segnala il vero picco picco, che sono o il CN801 Daiwa, che poi hanno fatto il 901 anche, però c'ha proprio il tastino AVG o PEP, oppure con il Beard, ma il Beard è roba, dai, da laboratorio, non mi piace nemmeno. E vabbè, sì, guarda, io al limite posso mettere un microfono amplificato da Palmo ZG, oppure il DM1000, oppure l'MB più 5, però di più non vado. E non alzo mai a manetta, perché se no senti tutti i rumori ambientali, tutto, anche il gatto che passa qui nella stanza senti. Senti la TV di mamma dall'altra camera. Ho capito, capito, ti faccio sentire questo quando avete due macchine. Oh, vedi un po', cambio. Ecco colto, no? Positivo, solo l'ho attivato adesso, però l'ho tolto, questo l'ho attivato, capito? Eia. Ascolta lui, una domanda, ma tu quel market che avevi vicino non lo disturbi più, no? No, assolutamente no. Non disturbo più. Cambiato qualche sistema, no, anche ho provato diverse cose, che posso fare tutto quello che voglio dire, posso provare quello che voglio, e anche ho fatto la prova sui 600 watt un giorno, così ho provato a mandare 600 watt col servizio di quello del negozio, lui era lì, dice niente, non si è sentito niente, ho provato a fare questa prova, 600 watt addirittura ho mandato e non entrava per niente. Caspita, allora hanno proprio schermato forte. Se tu non hai cambiato nulla lì nell'antenna, devono aver fatto qualcosa loro di buono. Avrò messo delle ferriti lungo i cavi, qualcosa del genere. Seglia. Vediamo se è rientrato Claudio. Claudio, sei rientrato? No. Natalino, il disturbo è passato? No, c'ho sempre quel disturbo del cavo. Se uno passa il 9, abbondantemente lo sento, se non usa. Caspita, Luigi non ti arriva... Cioè, meno di 9 o pari al 9 ti arriva Luigi, o sì? 9,5 arriva, ma molte volte me lo copre proprio. Perché è un rumore fastidioso. E invece qua c'è lo switcher che sale, scende, uffa. Anche nell'altro apparato l'ha fatto, lo smitter non lo so, o va regolato bene o c'è il trimmer un po' sidato della regolazione dello trim dello smitter per la MFM, boh, ogni tanto sale e scende, infatti i controlli giusti non ne posso più dare lui, sono solo approssimativi diciamo. Prima era normale quando ho dato il controllo, adesso è salito un bel, tutto a fondo scala siete. È positivo, comunque c'ho tutto il loro smitter professionale, c'ho tutto sino. Posso fino a 5.000 watt, posso fino a 5.000 watt ci posso arrivare, ma ce l'ho tutto, io diversi dai, ce l'ho tutta la roba professionale dai. Eia, poi qua sai cos'è, non c'è neanche posto per mettere roba in più, qui io posso mettere qua un baracchino, a fianco c'è il ricevitore, un ricevitorino con l'antenna esterna e un orologio con data, ora e termometro e boh. C'è un piccolo mobilettino 30x30, capito? No, non c'ho stazioni con scaffali, no, assolutamente. E poi no, non potrei proprio, non potrei, non c'è lo spazio. Portali qua. E ma tanto tu i baracchini non li puoi variare. No, i baracchini a giocare servono qui, non ho baracchini. Claudio di Vulcano. Ciao Claudio, buonasera. Io faccio baracchini qua, bisogna mettere baracchini qua, metto. E lo giù. Non perché non posso vedere, io ho il DAC come baracchino, ma è antiestetico, poi non ci ho posto anche baracchini, sono tutti HF. Beh, il DAC è antiestetico, no, diciamo che è una bella estetica proprio il DAC, invece qui ci sono baracchini veicolari, dai, diciamo, intanto smettere sale, scende, tutti fanno scala, siete là, mamma mia. E vabbè, non è fatto il Giappone? Anche il baracchino serve, quando io c'avevo il baracchino, avevo il baracchino, poi dal 1983 adesso c'ho sempre questo e questo mi tengo. E c'è anche Natalino. Eia, sono qua. Eia, ma io sono andato a portare il cane, sono salito. Ma si è messa una bella giornata, sta girando nuovamente a maestrale. E lì com'è Gigi? E va fatto no? Sì, ha fatto a casa, capito? Ha fatto a casa, sopra il tetto di casa e nell'orto no. Dove c'è il cortile non ha piovuto. Ma tu lo sai, è sceso un'alluvione sopra il tetto di casa e 20 metri più in là non ha piovuto. Dalle macchine, preso da casa lì dove c'è l'arcobare appena e poi in giù non ha piovuto verso Polotorze, dopo casa verso Polotorze sulla 131 è tutto asciutto, non ha piovuto, abbiamo avuto solo San Giovanni, li punti, questa zona così dai, fino all'ottavo l'ho capito io, poi più in giù appena 20 metri dall'altra parte non ha piovuto più. E da ottava a Ciasciari e dintorni, a Cutonale da Sussurata, e poi basta. Ma sembra che domani sia come oggi lo stesso. Non lo so, non ho guardato le televisioni. Comunque per stasera è buono, l'ho visto poco fa nelle cellulare che è buono per stasera, capito? Claudia, ti sto facendo fuori un po' di cose, però roba di... non solo per camionisti, c'ho roba di per la 24. Che devo però gli riesco a vendermeli, le faccio fuori, roba di camion, dai, roba da 24, qualche lineare 750. le metto un po' in coso e ne faccio fuori, tanto me ne faccio più niente. Allora, beh, in stazione, in fondo me ne tengo un paio, buoni. Ne ho troppi di questi baracchini modificati, lineari, quello e quell'altro da camion, e cerco di fare fuori qualcosa. E infatti, conviene sì. No, io baracchini ho 6G, c'ho omologato dentro l'armadio, fa la 48 e poi c'ho il DAC, quello grande, che quello lì lo tengo perché insomma può sempre servire, basta. Il resto modulo sempre con questo io. Sì, positivo, e tengo il Saturn Eco, me lo tengo, che va benissimo, è sensazione fissa e niente. Poi i lineari 750, poi c'ho altri all'Imima, da 24 a 13,8 come si chiama, ma trasformatori da 24 a 13,8 ne ho due, quelli grossi che avevo in camion io, e ne ho due addirittura, di quelli lì, sempre per tutta roba per camion, però sempre roba per camion, poi 750 ne ho due, e dettagli 750 24 per camion ne ho due lineari. Non me ne faccio nulla, poi vabbè, posso tenere quell'altro dettaglio che ho sempre a transisto, però a 220 che ce l'ho, quello ce l'ho, nulla, ogni tanto l'accendo per farlo saldare, ma no, vabbè, a transisto già non si rovina. E niente, però tutte queste cose non me ne faccio nulla qua, tanto non sto mai adoperando, e tutti questi lineari che cavolo me ne faccio, poi siete in campo, siete in camion. Ma infatti se te ne fa, ormai tanto non ti servono più a niente, ti tieni i gas a casa e qualche baracchino veicolare, vai Marco. Scusate un attimo, riprendete voi, fate girare che vado in bagno. Vai Natalino. Io sto preparando il cane che adesso lo deve portare mia moglie. Natalino. Eia, sono qua. Non mi senti? Sì che ti sento, già ti sento. Ha giudito, dica che cosa. Stavo preparando il cane, perché questo commentario qua a Raffa non mi chiede che butta, che stesso a fare una commissione, capito? Gappa, eia, no, io l'ho portato adesso perché l'ho comprato, non è uscito, stava piovendo, quindi ho anticipato una mezz'oretta. Ho fatto tutto lo stesso, adesso si è curicato, almeno sono più libero. Poi claro, c'ho quello che hai sentito, quell'Inter che è famoso, nuovo, tutto, c'ho le buste, scatola, micro, tutto, staff, tutto, non è con grado, è nuovo, l'ho trovato io qua in stazione. E niente, cioè quello lì se qualcuno in qualche camper o se lo vuole mettere in vettura, quello se è un baracchinetto, tipo quanto la grandezza è un 48, quello se non me ne faccio nulla, se trovo qualcuno che li serve, e quello c'ha tutto, è nuovo di pacca, c'ha tutto, scatola, compreso staffa, tutto quanto, tutto, anche le bustine ci sono rimaste in cielo fa ancora. Che è come quello che c'avevo io, no? Sì, mi ricordo che tu l'hai avuto una cosa del genere, capito? Mi ricordo che l'hai avuto un coso. E poi c'è anche il frequenzimetro, c'è tutto questo. C'era da fare un coso, ma non l'ho toccato io perché l'ho lasciato, secondo che lo dai, poi lo vuole, l'ho lasciato normale, non l'ho toccato. Però c'è da togliere un coso e c'ha 10 bande addirittura questo qua. Se tu gli togli quelle ponticello ci fai 10 bande, questo ti fa 10 bande. Sì, c'è da tagliare un dio, diventa 400 canali. Il problema è che quella radio quando l'accendi va nella banda americana, capito? E devi schiacciare un pulsante per riportarlo dove era. Sì, la F tiene premuto quando accendi la F e te lo ricordo dove, però se tu te lo programmi, per esempio, rimane sempre lì, non si sposta più, attenzione. Se attaccare lo sposti, però ogni volta che accendi rimane sempre dove era. Se attaccare che tu fai accendendo schiacciando con l'altra mano schiacci questo il pulsante F, allora lo devi riprogrammare, lo metti nel programma che vuoi tu, dai, a Polonia, a Francia, si sposta nei posti, e secondo dove mette la nazione va solamente in FM, non passa in AM, capito? Hai fatto così, però non c'è bisogno, qua in Italia uno lo adopera, lo lascia fermo dov'è e va bene lo stesso. Si conferma, è così. Sì, per il camion è un bel baracchino questo, perché c'ha tante cose lì, è silenzioso, lo puoi programmare, locale, fai qualcosa locale e non senti quel REM, tutti questi rumori non ne senti. No, anch'io, già lo conosco. L'avevo preso io e Franco Califfo, e poi l'avevamo, boh, non mi ricordo se avevamo la Cadaniere, uno, boh, io non me ne ammetto, e io un sacco di intrugli, di giri sempre. Claudio, poco parola, tu conosci pure mio, questo sicuramente tu lo conosci, a questo qua no, lo conosci proprio, Franco si chiama, l'ha preso da Tonino lì a CBC, si chiama Tonino la CBC a Terrassetta, l'ha comprato nuovo, l'ha provato nel furgone nel Zilli, però si è incaccato, l'ho pulsato, gli ha dato che rimaneva in FM, non riusciva, allora gli ho dato un 48 che avevo io qua normale e me l'ha lasciato qua, è nuovo nuovo, c'è anche lo scontrino addirittura. E già costava più di 100 euro, costava. Dimmi Marco. No, volevo, ho sbagliato, a Luigi volevo dire, ma quello che stai vedendo è l'M490 Intech, o sto sbagliando? Sì, questo, non questo qua, l'altro, quello normale, sì, è l'M490 Intech Plus, sì. Eia, Claudio, qualche anno fa, un paio d'anni, ti avevo chiesto, come mi volevo prendere proprio da tenere come omologato l'M490 Intech Plus, ma come le ricordavo, insomma quell'apparecchio, e tu mi avevi detto, Claudio, che andava male in radio, che l'avevi preso con un amico ma non riuscivi a farlo andare, usciva male, boh, te lo ricordi? Ma, te lo ricordi che me l'avevi detto? Non era il 490, però era quello prima, o quello prima o quello dopo, adesso me lo ricordo, uno di quelli non mi piaceva, infatti avevamo fatto cambio con Daniele e ci aveva dato quello lì, capito, che lo usava Franco Califfo in macchina, però era il mio, e poi Franco mi ha detto, ma lo vendo, vendiamo una Lan 48, vendilo, aveva venduto e aveva preso una Lan 48 SX, capito? Eia. No, perché io l'ho sentito quello di Luigi e va bene, forse, no, non lo so, magari Franco non è stato capace di mettere il microfono adatto, eccetera, eccetera. Eia. Vabbè dai, quello poi una volta che lo trimmeri, li metti il trimmer alto, li metti, che ne so, uno ZG da palmo oppure l'HP1000, no, il DM1000 volevo dire, cioè, il DM1000 ha tonalità più basse, e mentre quello ZG da palmo non è niente male, perché dà tonalità leggermente più alte. E io le preferisco, quando sento uno in macchina preferisco che esca leggermente più con toni alti che più con toni cupi, ma questo è il mio gusto personale, a qualcuno può piacere il contrario. Oggi, ma vabbè, lo viene fatto lì, tanto tu c'era la 48, quindi no, non c'è problema. C'è un MB più 4 nuovo nuovo col connettore a 6, devo tagliare e mettere quella 4 alla 48. Tutto si può fare. A 6 è addirittura, e come mai a 6? Perché lo stavo usando su una radio HF, capito? Non c'avevo il microfono suo, lo stavo usando su quella radio lì, poi quando è arrivato il microfono, allora l'ho messo da parte, quando è arrivato il microfono suo, ed è rimasto sempre così, però lo voglio attaccare al coso, all'altro baracchino che c'ho, che c'ha l'attacco dell'Alan 48, capito? C'è un farlo, Alan 48 a 4. Ah, ho capito, si può fare, tutto si può fare. E come si può fare? Adesso, aspetta, lo faccio, te l'accendo quello lì, Marco, c'è ancora una 10 minuti di tempo. Te l'accendo e te lo faccio sentire con l'M... cos'era? L'M300, usi già. Sì, prova, io sono qua, tanto, fino alle 8 sono qua. Sì, mi compro il coso a 4. Lo facciamo, è sotto le scatole, questo microfono nuovo nuovo non lo sto usando, è sempre da parte perché con gli ESU c'è l'altro microfono e quello lo uso con il coso a 4. Ah, e beh certo Claudio, se il microfono è fermo, sulla ESU c'hai già il microfono suo, e allora mettilo al DAC quello. Naturalmente quello ai toni fissi, speriamo che sia bilanciata la modulazione. È per quello che io ho scelto l'MB più 5, perché è molto più versatile avendo i toni regolabili. Per esempio, se in un apparato esci più cupo, toni bassi, ma magari che possono non piacere. Correggi il tono, mica è una gran cosa mi avere un microfono. Guarda, c'era una static, no? Da palmo, era eccezionale e aveva volume e tono. Microfono da palmo con regolazione di tono anche. E infatti tutti lo ricercano dicendo che era il migliore, e adesso no, non esiste più quello lì, non lo fanno più col tono regolabile, purtroppo. Luigi, sei pronto? Positivo Marco, questo è l'Ince che col, l'ho messo, non so se l'amplificazione è molto, con l'M300. Ah, bello, bello, una cosa chiara, limpida, è vero Claudio, non è bella la modulazione, conta che il trimmer è chiuso, il trimmer della M, se apri il trimmer della M è ancora più performante. No, ma l'avevo già sentito questo, già funziona bene, non c'è problema. Eia, è bellina la modulazione. Pensa, te l'ho detto Luigi, aprendo il trimmer della M migliora ancora, chi lo prenderà sarà soddisfatto. Poi te l'ho detto, un microfono ZG da palmo, non spinge troppo quello ZG da palmo, però ti dà toni un po' acuti almeno, a chi piace, no? È positivo, questo è il classico, però c'ho anche MB2-5, MB2-5, c'ho anche quello come microfono, anche... faccio nulla lo stesso, non ne adopero mai, neanche questo M300 adopero, vedi? Adesso l'ho messo sotto per la batteria mezzo scarica pure, e niente, l'ho messo la lucetta verde invece di rosso, l'ho messo a posto un po' questo microfono, era fermo, l'ho un po' messo a posto e niente, così è con l'M300, questo sempre quel baracchino lì. Eia, è buono, lì... te l'ho detto, immagino anche alla voce di chi lo usa, guarda, sono i più economici, alla fine rendono bene, o il DM1000 o adesso non mi ricordo la sigla dello ZG da palmo, mannaggia, che poi ho preso quello col beep escludibile perché quello normale non c'era, quindi è il mio amplificato più il beep, capito, escludibile, quello bitonale. Io a orecchio, per esempio, Eugenio, no? Gli ho regalato un baracchino Midland, la 48 XL Multi, no? E lui ha provato due microfoni, sia il DM1000, il Proxy DM1000, sia lo ZG da palmo. A orecchio a me piaceva più lo ZG da palmo, aveva la modulazione leggermente più acuta, era più penetrante. Lui ha preferito quello più cupo, il DM1000, ma vabbè, è di questione di scelte. Natalino, riprendi un po', ci sei? Io già ci sono, il cane l'abbiamo mandato a passeggio. Ricordatemi Natalino, già lo sai, c'è il cane, rompe le scatole, picchia la pompa. Col tipo elettrico vuole picchiare. Poveraccio, ci mancherebbe, guarda. Ci mancherebbe, ho sentito, Claudio, ho letto sulla Nova che stanno avvelenando cani, non mi ricordo in che zona, non mi ricordo esattamente la zona, ma stanno ricominciando a avvelenare cani e gatti, e bisogna stare attenti quando li porti che non mangino roba l'onfia, per carità, non beccarli. Sì, vabbè, io lo porto dentro il mio giardino, e nel giardino comunale che hanno pulito tutto, è recintato, no? Qui sono cani randaggi che non possono vedere, scattano disturbando, allora li ammazzano, ma i cani qui li aggrizzagliano, di solito non mangiano mai niente, capito? Gigi, ma quello MB2-5 lo stai dando? Cosa c'ha? L'attacco a 4? Sì, 48 ce l'ha, qua. Ce l'ha l'attacco 48. Se non te ne fa niente, dammelo, te lo prendo io, capito? Così del MB4 me lo tengo di scorta così con quel connettore. Non si sa mai che mi serva su qualche radio HF, ce l'ho. Va bene, tanto faccio quello lo do anche quello lì, tanto non lo do però mai io. Però ce l'attacco il tipo Midra 48, ce l'ha così pure. Attacco 48, Alan 48, intanto è uguale, io c'ho tutto attacco 48, Alan 48, se funziona con l'Alan 48 non faccio altro che mettere la batteria e attaccarlo. È positivo, dai, perché c'è la batteria ma mi pare mezzo scarica in quel microfono, in quelle... scarica del mese, ci vuole la batteria nuova, io non la adopero mai, capito? Vedi, vedi, farò appia mio, sono domani scendo. Beh, è stato lì e ce l'ho da una parte, ce l'ho messo da una parte lì. Eia, io sto usando per gli amplificati, no, tipo l'MBP5, sto usando batterie ricaricabili. Quelle che non sono da 9, sono da 8,4, poi vabbè, quando è carica ne dà anche di più. Quindi quando si scarica la ricarico, ma dura un bel mi la batteria carica. Non le compro più, stavo provando a sperimentarle, sembra che vadano abbastanza bene queste batterie. No, no, vanno bene quelle da 9 volt, si scaricano al caffè domani mattina G, capito? Domani mattina scendo, mandami un riposo su WhatsApp, cosa devo portare? Lì, lo metto dentro, domani mattina, fatti vedere lì, quello sulla retta domani mattina ci pigliamo il caffè, lo metto in macchina. Ehi, ex gambero? Bravo, bravo. Ok, dai, così mi viene bene, così poi vado allo stacchio di traffico e giro. Va bene, domani mattina, ma presto? Così poi porto il cane, dopo, lo porto dopo. E tu presto che cosa intendi dire? 8:30, così intendi dire? Esatto, 8:30, così poi 9:30 salgo e porto il cane. Perfetto, dai, tanto lo metto questa diretta a soluzione. E mi va benissimo, tanto io esco da casa sempre alle 8 e vado lì e dai, va benissimo 8:30, come va bene, dalle 8 in poi ci sono, dai. Sì, anche 8:15, non c'è problema. Dai. Tu aspettami lì, domani mattina mi faccio vedere, mi metti pure in macchina e così non stiamo a cambiare né connessione né niente, quello me lo tengo di scorta e quello lì me lo attacco sugli altri due radio connettori a 4, capito? È così, quello è sentito tante volte quando lo provavo, te lo ricordi quando lo attaccavo, dove lo mettevo? In quell'apparato si faceva una radio bella, te lo ricordi quel microfono, quando lo mettevo e tu mi dicevi cavo, e poi se facciate la radio non ha funzionato più. Se ricordo di mettermi in quella macchina, mi pare mai venuta tu quella radio, no, chi era in quella radio? Mi è venuta tu quella radio lì, no, quella l'ho regalata a Giampaolo, precisa comunque, non è mai venuta tu una volta. E lo mettevo, ti ricordi che radio faceva quel microfono? No, ma è bello quel microfono, già va bene, o più 4 più 5 a me vanno bene, poi io e tu ci abbiamo la tonalità bella grossa, quindi già va bene. È giusto per usare sia il DAC che l'ARAN 48, capito? Perché per il DAC c'ho lo spezzone, da 48 al DAC. Mentre per il 48 ce l'ho originale, no? Così va bene con l'attacco alla 48. Va bene, domani mattina 8:15 sono da te. Vai Natali. Cava. Vabbè, là, io me la sto chiudendo che devo preparare qualcosa qua. Ci sentiamo alle prossime. Ciao a tutti, là. Ciao Natali, ciao. Ci sentiamo a domani. Vai Marco. Eia, ciao Natali, buona cena, buon proseguimento di serata, saluta la signora, dai. Eia, l'MBP5 ha una marcia in più, Claudio, ma come la penso io? Molti pigliano il 4, ma il 5 è più adattabile in base al baracchino a cui lo metti, no? Perché puoi ritoccare il tono. Non è roba da poco, dai. Cappa, bene. Lui, ti volevo chiedere, il tuo MBP5 per curiosità è modificato per uscire più forte o naturale? Ma io mi sa non l'ho mai toccato quello lì, no, mi sa di no, no, non l'ho toccato, no, abbiamo fatto forse qualcosa dentro, adesso non me lo ricordo neanche, ma non lo so se l'avevo toccato quello lì. Più 4 sì, l'avevo fatto uscire una bomba a quello, ho fatto il ponticello, poi avevo cambiato la capsula, quella cosa verde dietro, la sua cosa in metà là e cambia e se ne frega delle più 5 pure. Nemmeno più 4 te lo fai bene, se ne frega del più 5, mi fai quel ponticello, lo sa anche Natalino come fare quel ponticello lì. Eia, io guarda, ho provato l'MBP5 mio che è originale, con l'apparecchio ovviamente col trimmer aperto, io l'ho messo a manetta ma si sentiva anche il soffio dell'aria, aveva detto più di così, più amplificato di così cosa vuoi amplificare, sennò poi alla fine è troppo, dai, infatti ho deciso di tenerlo originale, cioè spinge già di suo, ho notato, va bene dai. Comunque io avrei voluto anche l'MB4. Non sia che la ZG, sai, ormai non c'è più mercato, non sia che la ZG chiuda, mi sarei voluto accaparrare anche un +4 da tenere per usi futuri. Io non ce l'ho più, non mi ricordo neanche che l'ho dato. Ho dato anche tutto, ho dato anche il come si chiama, anche lei. Ne avevo due addirittura, delle, ma mannaggia, darmi +3, neanche quelli ci ho più, l'ho dato, uno l'ho dato a Massimiliano e l'altro l'ho dato a Pinuccetto al Molo, neanche quelli ci ho più. Vabbè, tanto lo prenderei nuovo. Il 5 l'ho preso da Fusaro, nuovo, e poi se c'è un +4, perché no? Certo, non lo uso molto, perché poi anche becca tutti i rumori. Vabbè, basta tenerlo anche un po' più basso, non troppo alto. Beh, già 7 è un bemmi, sento tutti i rumori della casa, sento le macchine quando passano in strada, figurati. Ok, dove vai Claudio? Buonasera. Ciao Lu, buonasera, ben ascoltato. Ciao a tutti, dai. Ho detto, insomma, facciamo un lavoretino in camera, accendo il baracchino, ma era impostato sul 5, non sentivo nessuno, ho detto, forse un giro, e invece eravate qua, dai. Sempre qua siamo noi, il canale nostro è questo. Ciao Luca, buonasera. Ciao Gigi, ancora ti arrivo lì, sì. Arrivi, a voglia che arrivi. Ciao Marco, avanti, riprendi. Ciao Luca, carissimo. Noi stavamo parlando del MB+5, tu l'avevi modificato, mi pare, o il 4 che sia, e uscivi fortissimo. Certi momenti quando entri, tutto a voci entri, no? E quindi è fortissimo. Questo è +4, Eia, ma stai moderando anche la voce, perché certe volte sono i voci. È proprio amplificatissima la tua radio quando parli appena più forte. Sto parlando, forse un po' basso pure, dubite. Vabbè, a 5 euro, come sempre. Figurati quando è a 10, ciucciu. Guarda, adesso è a 10, prova. È forte, poi se parli vicino non ne parliamo. Ma ci sarà la batteria scarica. Devo procurarmi un PTT, perché ormai di nuovo quel problema mi sta facendo, che si è rotto quel pezzo. Non so se lo vendo o neanche, boh. Se lo vendo non lo cambio. Appunto, come ho pensato io, ma i ricambi non li vendono in questi ZG o è tutta roba usa e getta? Forse Claudio lo sa. No, non mi vendono i cambi, no, usa i cambi di MB+4, poi sta roba è brasca, cosa si faccia, o ti racconto e ti lo vieti. Ma la ZG, domanda, non ha un centro assistenza, cioè se una cosa è garanzia o anche fuori garanzia, non hanno un centro di riparazione? Ma penso di sì, che ci sia, vero G? Non lo so questo, su, dove, ma come volte c'è una zona di Milano, c'è la ZG, c'era quell'amico mio che abitava vicino, lui proprio al centro della dove vendevano, però se c'era un'assistenza, questo non te lo so dire, dove comprava i fritti, però gli finali, queste cose così ce le aveva, però non lo so, di microfono, queste cose così non lo so se ce l'ha, però finali, queste cose così di lineari ce le ha, quelli ce li ha. Comunque dai, io devo salutare Claudia, allora ci vediamo domani mattina, dai. Ciao Marco e ciao Luca, dai, devo chiudere. Ciao Gigi, ci vediamo domani mattina, dai, ciao. Ciao Luigi, buona serata, buon tutto. Ciao Luigi, alla prossima, dai, ci sentiamo, ciao. Quell'amico tuo adesso è morto. Un amico mio, e chi? Quello c'è la ragazza vicino a casa tua. Quello c'è una ragazza vicino a casa mia. Massimo Zara. Cazzo, c'è una di morto. Non lo so, l'ho saputo, io sai che le voci girano subito lui. Se muoio io vai tranquillo che arrivo anche a te. Ciao a lui, ciao. Ciao Gigi, ciao, ci sentiamo domani, ci vediamo domani, ok. Tra spedirlo 10 euro magari ti chiedono 30 euro di mano d'opera, te lo compri nuovo. Non avete parlato in due, non ho capito niente. Cosa hai detto lui? Ho detto che sto mettendo in moto un, come si chiama? Un tablet, perché da tanto tempo fermo. Ah, ho capito, ho capito. E già va bene, già va bene. Ma che c'è tanta, già va bene. A me mi hai capito. E mi disturbate un bel. Tu cosa hai detto? Mi stavi? No, dico che anche se ci fosse un centro assistenza, fuori garanzia non vale la pena. E anche in garanzia, perché devi spedirlo e sono 10 euro. Se fuori garanzia magari ti chiedono 30 euro di intervento e siamo lì, hai raggiunto il valore dell'MBP4, capito? Costa poco come roba e quindi alla fine non vale la pena manco di mandare riparazione. Se fuori garanzia no, assolutamente non vale la pena. Ma io tempo fa ho assistito a una cosa del genere, non so chi è che mi ha mandato l'Aran 48 tramite Tonino, mi pare fuori, un casino, li hanno tornato dopo un anno, boh. No, vabbè, io sto parlando dei microfoni ZG, tipo l'MBP4, cioè costa 40-45 euro nuovo, nuovo dal negozio. Qui non vale la pena di farlo riparare se è fuori garanzia. Ti costa quanto il microfono nuovo? Sì, l'MBP4 e l'MBP5 costano 45 euro nuovi, già. Non è quello il problema, infatti quando mi si faccia te lo darà comparare. Brutto è se ti si rompe un MC60, un SM20, un MD100, 200, cioè microfoni professionali, quelli costano una barca di soldi, capito? Ma quelli lì conviene l'appazzino, te lo tieni a pezzi di ricambio e basta, specchiatelo. E tu Lu, finito il mare o la piscina, stai sempre andando oppure no? A parte oggi che piove. No, finito. Ehi, io mi sono perso metà estate, non... con la scusa che arrivava il caldo, troppo caldo, ho detto ma chi ce lo fa fare? A portarci tutta la roba, a parcheggiare, a tuffarci a trovare un parcheggio, poi andare a piedi fino in spiaggia con tutta la roba presso, troppo caldo. Poi venivamo maestrali e non andavamo per il maestrale, insomma, ci siamo bruciati in mezzo estate. Pazienza. E vabbè, alla fine, diciamo che quest'anno già mi sono abbronzato, dai, non posso lamentare, ma andavo di sera solo. No, io l'abbronzatura mia se n'è andata già con le docce, la quasi abbronzatura, proprio bobo. Io che mi ero prefisso di andare ogni giorno quasi, purtroppo ci sono state queste ondate di caldo estremo africano che quando c'è troppo caldo non vado al mare, quando c'è maestrale tanto meno, e quindi pazienza, adesso vediamo a settembre come sarà, ma è iniziato male già, piogge, anche se è stato meglio che piovesse, comunque sono contento. Piogge, ne ha fatto solo una oggi, boh. Ehi, sono contento che abbia piovuto, perché non piove da mesi, bacini secchi, o poi non me ne frega più del mare, non me ne affutti, pazienza quest'anno. E vabbè, io ero anni che non andavo, ho capito, si abbasso qua. Allora, mi senti l'aggetto, senti? Si sente? Eia, un rumore lonfio, sembra roba di alta tensione. L'aria calda. Ah, quello è. Ehi. 8:20. Vabbè, telegiornale alle 8. Vabbè, Claudio, rientrato? Magari c'è gente, Claudio. Adesso vediamo cosa ci dice. Ehi, è arrivato Massimiliano della Sassari. Ciao, buonasera a tutti. Passa a trovarmi sempre. Ciao Massimiliano, ben sentito, c'è anche Luca. Luca, vai. Luca è morto. Ehi, Luca è morto, oggi avete voti. Vabbè, comunque. Aspetta. Io che vado a mangiarmi il gelato, io. Luca. Sì, aspetta, ciao Massimiliano, aspetta un attimino Marco, che sto... andare a caricare un tablet, aspetta. Ehi, dai. E sto per andare via tanto, mi appena rientra Claudio. Vado a mangiarmi il gelato, dai. Marco, scusa che c'è gente.